perfetto mondo. Eccoci qua, buongiorno Giulia Crivelli, ciao, ciao Giulia. Buongiorno. Benvenuta. Allora, allarghiamo lo sguardo come sempre con te, dove ci porti? Forse sempre negli Stati Uniti, dove comunque sì, la situazione è sempre ci molto... Sono... Sì, ci sono queste foto veramente incredibili. Il New York Times ha scelto la poppa di questa nave, la nave Comfort, che è una nave della Marina Militare Americana, una nave ospedale, oltre 1000 posti letto, ed è veramente impressionante perché c'è il rimorchiatore, si vede il rimorchiatore che la porta verso la banchina e sullo sfondo l'Empire State Building e un gabbiano che vola sopra questa nave. Ieri molti newyorkesi, anche solo magari in modo virtuale, hanno guardato arrivare questa nave, che è appunto una, questo è frutto dell'impegno, il governatore Mario Cuomo lo ha detto chiaramente nella sua consueta conferenza stampa, 20 minuti di conferenza stampa, io lo trovo un uomo eccezionale per come si sta comportando, perché è molto coerente, molto pratico, ammette gli errori, ma dà anche onore quando deve dare onore all'amministrazione centrale e poi dà spazio alle domande, il tutto in un 30-40 minuti che veramente confortano, ecco, in un momento come questo, sono questi i veri leader, credo, e naturalmente ne parlano tutti i giornali perché New York è l'epicentro, possiamo dire a questo punto, mondiale in questo momento. Se volete possiamo sentire un breve audio sì, del mio nuovo idolo Andrew Cuomo. Sentiamo. We said we have to work as one system, so share staff, share resources. If one hospital is doesn't have enough masks, rather than that hospital have to scramble, let the other hospitals help. More mutual, Ken's word is a good one, a healthcare family, as opposed to these distinct operations. And we work that through. Ecco, cosa sta dicendo? E poi ti voglio chiedere anche Giulia, scusami, tipo di, insomma, di contrasto crea uno come Cuomo rispetto a Trump? Perché chiaramente sono due personaggi agli antipodi, ma in questa fase sono entrambi ovviamente impegnati a New York e per quanto riguarda gli Stati Uniti in prima linea, e c'è una distanza, no? Evidente. Certo. Qui è la parte dove dice, fa una lunga premessa cercando di spiegare, evidentemente anche per gli americani è difficile da capire, che nello stato di New York ci sono alcuni ospedali pubblici, alcuni ospedali gestiti da fondazioni, alcuni ospedali classicamente privati, gestiti da privati, e che lui si è sforzato, era reduce da una riunione con tutti i vertici di questi vari ospedali, perché diventi una healthcare family, cioè una famiglia per le cure sanitarie, e che quando un ospedale ha una qualche difficoltà chiede aiuto all'altro ospedale. Insomma, è veramente, se vogliamo, un po' quello che naturalmente col senno di poi forse avrebbe potuto essere un modello anche per la Lombardia o per altre regioni, cioè cercare veramente di mettere in rete, anche sfruttando la tecnologia, tutte le esigenze dei singoli ospedali senza fare distinzioni pubblico privato, residenza per anziani o residenza per persone con disabilità mentali, o negli Stati Uniti, in particolare nello stato di New York, residenza per reduci militari che spesso hanno anche dei problemi appunto di salute mentale. Per quello che mi dicevi, ne parla soprattutto il Washington Post, addirittura qualcuno subito, essendo in anno di elezioni, ha detto: ma Cuomo sta dimostrandosi talmente un leader, Cuomo è un governatore, appartiene al Partito Democratico, perché non si candida presidente? Gli hanno fatto la domanda ieri in conferenza stampa e ha detto: ma non ci penso neanche, non lo farò assolutamente per questa tornata, ma neanche nelle prossime. Non esiste blu e red, blu e rosso, che sono i due colori tipici dei partiti, uno certo, democratico e l'altro repubblicano. Qui dobbiamo essere in questa battaglia tutti insieme. Ha detto che darà, che ringrazia Trump per quello che sta facendo, continuano ad avere alcune divergenze. Trump lancia, soprattutto con i suoi tweet, delle accuse, per esempio sul fatto che Cuomo sta accumulando mascherine e camici, perché dice: non siamo ancora al picco e noi dobbiamo prepararci per quello, noi in questo momento stiamo rincorrendo il virus, dobbiamo riuscire a correre più veloce di lui. E su questo Trump invece lo ha molto criticato, dicendo: smettila di chiedere mascherine, usa quelle che già hai. E Cuomo risponde: no, perché con quelle che io ho in più in questo momento voglio fare una scorta. E se vogliamo, tra l'altro, sì, se vuoi, sì, a proposito della strategia di Trump, sentiamo le parole di Steve Bannon, che è molto famoso qui anche in Italia, no? Pare sia stato anche consigliere dei nostri sovranisti locali e di altri sovranisti europei, e che in questo momento è consigliere di Trump, e naturalmente dice Trump sta facendo la cosa giusta anche di fronte a questo ennesimo dietrofront, tutti in chiesa a Pasqua, no, come non detto, fino al 30 aprile. Tutti, ecco, in casa. Meglio così, sentiamo. I want to even tighten this thing up some more so that we can get through this quicker and faster and have a steeper revival. And I believe that's what's going to happen. I think it's the right thing to happen. Se vuoi una veloce traduzione, ecco, poi andiamo magari, sì, in Europa. Bannon dice, ha ragione Trump, bisogna che il lockdown diventi ancora più severo e più che comprenda sempre più attività, perché così poi la ripresa sarà ancora più veloce. Quindi, insomma, un vero e proprio yes man questo Bannon. Senti, invece venendo in Europa, in Spagna, il dato di poco fa è incredibile, 1000 contagi in un giorno, la Spagna sta per superare anche l'Italia. Sì, è il paese, naturalmente, anche al paese e anche al mondo fanno molto effetto queste immagini della nave a New York, però il paese in realtà ha un'immagine di una fabbrica dove ci sono dei volontari che stanno tagliando, li vedi proprio vicino tutte alle loro macchine da cucire, sì, questi camici in tessuto non tessuto, perché a differenza dell'Italia e della Francia, in Spagna ci sono meno aziende tessili che sono riuscite o potrebbero riuscire a riconvertirsi in fretta per questo tipo di produzioni, e quindi comunque i volontari insieme naturalmente anche ad alcuni consulenti manifatturieri hanno messo in piedi questi laboratori, perché anche lì il problema è quello dell'equipaggio, delle protezioni, quindi, certo, non soltanto le mascherine ma anche questi camici che coprano il più possibile il corpo e non siano troppo pesanti, perché li devono tenere i medici e naturalmente gli infermieri e tutti gli altri operatori sanitari per una media di 12-14 ore, i turni sono questi anche in Spagna. Senti Giulia, mi segnali dall'Inghilterra, il paese democratico per eccellenza, dove le persone dovrebbero essere più responsabili, eccetera, eccetera. Insomma, c'è un po' questo via libera tutti e questa difficoltà a tenere la gente nel rispetto delle misure. Sì, e tanto che appunto ieri addirittura la polizia ha cercato di fare più controlli possibili, anche dare delle multe dove è previsto dalla legislazione di urgenza, ma c'è stato un coro di proteste, perché pare che un poliziotto abbia fermato una signora perché aveva comprato delle cose che non venivano ritenute beni necessari, poi un'altra persona che era uscita perché aveva detto semplicemente avevo bisogno di un po' d'aria, siccome nel Regno Unito per un'ora per esercizio fisico si può uscire, sono veramente, e queste segnalazioni aumentano, oggi tutti i quotidiani danno conto di questo overreach, cioè un po' essere troppo zelanti della polizia per mantenere questo lockdown. È un dibattito che lì, come dicevi tu, essendo una democrazia liberale per eccellenza, con una grandissima, certo, tradizione appunto di Stato che non deve imporre le regole ai cittadini, perché i cittadini sanno capire da soli cosa è bene per loro, siccome non è proprio così neanche lì, insomma il dibattito continuerà. Ho trovato molto interessante, sì, però l'articolo su Scotsman, che è un quotidiano scozzese, perché si sta succedendo quello che in molti prevedevano, cioè che altre procedure di emergenza come lo screening per i tumori sono di fatto cancellate, perché tutte le forze delle strutture sanitarie sono concentrate sul Covid, quindi rinviati anche appunto procedure, operazioni non urgentissime, però insomma questi sono poi speriamo che passi abbastanza presto. Grazie Giulia Crivelli, tutto anche per la puntata di oggi di Effetto Giorno, con Peter Belcapa in regia, Claudia Schiattoni in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao da Alessio Maurizi.